La strada del lupo Cerrino. Un giorno una bambina di nome Bianca e il suo papà Andrea imboccarono con la loro auto una strada che attraversava la campagna. Su una pietra miliare c'era scritto Strada del lupo Cerrino. Bianca chiese a suo padre: "Perché si chiama così?" Andrea era uno di quei papà a cui non piace restare senza risposte. Prima pensò di inventarsi una storia, tanto per soddisfare la curiosità di sua figlia, ma poi decise che forse si poteva chiedere a qualcuno nei paraggi. C'era un pastore che sonnecchiava su un prato, all'ombra di una quercia secolare. Le sue pecore pascolavano in un campo d'erba. Andrea accostò, scese dalla macchina e percorse un sentiero stando attento a non sporcarsi le scarpe che quella mattina aveva lucidato per bene. Bianca, che aveva da poco compiuto 9 anni ed era molto curiosa, decise di non restarsene seduta in macchina e lo seguì. Il pastore aveva gli occhi socchiusi, li vide avvicinarsi ed era come se si aspettasse la loro visita. Andrea si schiarì la voce. Signor pastore, mi scusi se la disturbo. Lei sa per caso come mai questa strada si chiama Strada del Lupo Cerrino? Il pastore li guardò, girandosi un filo d'erba tra i denti. Finalmente iniziò a raccontare una storia. C'era una volta un orco che abitava in un grande castello. Nel parco teneva 14 lupi, le sue fedelissime guardie. Il loro capo si chiamava Squartaciccia ed era un'autentica carogna. Lo spalleggiavano 2 luogotenenti non proprio inappuntabili. Il primo, Cecaocchi, copriva con una benda nera l'orbita dell'occhio sinistro, perso in una brutta rissa di 2 anni prima. Da allora faceva fatica a mantenere l'orientamento e dimenticava spesso le cose, ma si sforzava di non darlo a vedere per paura di essere considerato debole e di essere cacciato. Il secondo, Codamozza, un nome che non ha bisogno di tante spiegazioni, andava in giro con un vecchio frac. Era convinto che quel lungo soprabito mascherasse la sua menomazione, ma gli altri del branco si facevano beffe di lui. Quelle belve erano capaci di qualsiasi prepotenza e non avevano paura di nulla. L'orco le aveva istruite a procacciargli il cibo migliore, il più tenero, e i lupi facevano a gara per ingraziarsi i suoi favori. Spesso si recava con loro a caccia, sguinzagliandoli nei boschi che circondavano il suo vasto territorio. Un giorno un bambino di nome Marco si era allontanato troppo dalla casa dei genitori, finendo poi per perdersi. Le belve lo avevano circondato e lui stava facendosela sotto dalla paura. Aveva solo 6 anni. Ma uno dei lupi, un lupo giovane e irrequieto, che non apprezzava affatto la sottomissione del branco ai capricci dell'orco, fece 2 passi avanti e li bloccò. Che tradotto dalla lingua dei lupi significava «Non toccatelo, o dovrete vedervela con me». Il branco scoppiò in una risata collettiva. Era impensabile che quel lupo ce la potesse fare da solo contro tutti, ma la regola voleva che fosse il più esperto a dargli una lezione. Squartaciccia aveva intuito da tempo la pericolosità del rivale, percepiva il suo vigore e non era affatto sicuro di poter vincere quel duello. Così lasciò che il giovane lupo fuggisse insieme al bambino. Il branco mugugnò, ma lui diede l'ordine di ripiegare verso il castello, costringendo tutti a tornare con le fauci vuote. Squartaciccia aveva un piano. Voleva farla pagare a quell'incauto, punire la sua audacia e liberarsene definitivamente. L'orco era dotato di poteri magici e capiva la loro lingua. Quando gli fu riferito dell'ammutinamento, sbottò: «Cercatelo! Voglio il traditore e quel bambino prima che faccia notte!» Il lupo ribelle però era furbo, oltre che generoso. Così riportò subito Marco nelle vicinanze di casa perché fosse al sicuro. Poi si dileguò, tenendo in bocca un guanto di Marco. In quel modo gli altri lupi avrebbero sentito l'odore del bambino mischiato al suo, credendoli ancora insieme. Conosceva la crudeltà dell'orco ed era certo che avesse già scatenato le sue guardie in una caccia senza tregua. Dopo un lungo inseguimento, il giovane lupo fu fatto prigioniero. Fiero di sé, Squartaciccia lo condusse davanti all'orco per la sentenza. Questi decise che lo avrebbe costretto in una gabbia così angusta che il poveretto avrebbe avuto difficoltà perfino a muoversi. Sarebbe invecchiato prima del tempo, anchilosato dai reumatismi e sbeffeggiato dai lupi. La sua condanna doveva essere un esempio per tutti. Quello che l'orco non aveva previsto era il senso di riconoscenza che Marco sentì da subito nei riguardi del giovane lupo. Passarono le settimane. Quando l'inverno era ormai alle porte, Marco decise di raggiungere il castello. Lo aveva sempre visto da lontano, così grande e imponente da dominare la vallata in cui lavoravano suo padre e gli altri contadini. Era un posto davvero pericoloso per un bambino e i genitori raccomandavano sempre ai loro figli di tenersene alla larga. Tutti conoscevano i gusti raccapriccianti dell'orco e le leggende sul suo conto non mancavano. Era ancora buio. Marco controllò che i genitori e sua sorella Sara, che aveva 2 anni meno di lui, dormissero e uscì di casa. Erano le 5 di mattina. Camminò a lungo, acquattandosi nell'erba fradicia al primo rumore sospetto. L'alba era appena sorta quando giunse in prossimità del castello. Sentì ululati e schiamazzi che si avvicinavano. Siccome era un bambino coraggioso, anziché chiudere gli occhi, li tenne bene aperti e vide l'orco che usciva a caccia con la banda dei lupi. Aspettò che si fossero allontanati e si inerpicò sul muro di cinta. Ma il muro era così alto che gli ci volle quasi tutta la mattina per arrivare in cima. La discesa non si rivelò più semplice e ogni volta che guardava in basso soffriva di vertigini. Quando finalmente trovò la gabbia e vide le condizioni in cui era ridotto il suo povero amico, capì che era meglio darsi da fare anziché perdere tempo a compiangerlo. La fortuna gli diede una mano, perché le chiavi della gabbia erano appese dietro l'uscio principale del palazzo. Ciecaocchi, come gli succedeva sempre più spesso, si era dimenticato di chiuderlo. Così Marco aprì la serratura e liberò il suo amico dalla prigionia e da una morte certa. Il suo debito era saldato. Ora però bisognava fuggire in fretta. L'orco poteva tornare da un momento all'altro. Scavalcarono il muro. Marco in groppa al giovane lupo che con 4 zampe si arrangiava meglio di lui. Poi decisero di cercare rifugio nella foresta. Stava per scendere la notte. Faceva molto freddo. Marco ricordò che suo padre gli aveva insegnato a tenere in tasca 3 fiammiferi. Se avrai bisogno di accendere un fuoco, gli aveva detto, ricordati che il primo fiammifero lo spegnerà il vento. Il secondo si spegnerà nel tentativo di accendere gli sterpi troppo umidi. Il terzo ti salverà la vita. Marco riuscì ad accendere il fuoco con un solo cerino e ne fu davvero orgoglioso. Ma accadde una strana cosa. Il lupo, non avendo mai visto un fuoco così da vicino, si spaventò ed era sul punto di fuggire. Fu Marco a rassicurarlo. «Non avrei mai pensato, disse, che i lupi avessero paura di qualcosa. A proposito, come ti chiami?» La coda del lupo divenne un punto interrogativo. Marco capì. «Allora ti darò io un nome. Da oggi ti chiamerò Lupo Cerino». Il lupo, contento di quella novità, offrì la sua zampa a Marco. E la loro amicizia fu definitivamente suggellata. Da allora, finì di raccontare il pastore, la strada è stata chiamata Strada del Lupo Cerrino. Perché Cerrino con 2 R? Chiese Bianca, che non si accontentava di spiegazioni a metà. Perché alla gente, col passare del tempo, piace sempre storpiare un po' i nomi. Insomma, se ne appropria, come si fa con un paio di scarpe. Se te le metti tutti i giorni, prendono la forma del tuo piede. Anche i soprannomi si attaccano alle persone, o no? A te, per esempio, che sembri così tenera, ti chiamerei Caciottina. Nel dire questo, negli occhi del pastore passò un lampo di furbizia. Si tolse il filo d'erba dalla bocca e si drizzò in piedi. Poi fece un fischio in direzione del gregge. Bianca e Andrea lo ringraziarono, pensando che si accingeva a riprendere il lavoro dopo la siesta, ma non era così. Quasi subito si accorsero che qualcosa non quadrava. Sotto i loro occhi, poco a poco, il manto delle pecore stava prendendo un colore sempre più scuro e la morbida lana che le ricopriva si trasformava in un pelo ispido. Non solo, il loro muso inoffensivo diventava un ghigno feroce e i denti si facevano aguzzi come punteruoli. Allora si voltarono per avvertire il pastore. E quale fu la sorpresa? Il pastore non c'era più. Al suo posto era comparso un ometto, vestito in completo da caccia, con tanto di gilet. Al gilet mancavano 3 bottoni, visto che la sua pancia traboccava. Intorno alla vita portava una specie di cintura, ma al posto delle munizioni era zeppa di ciupa ciupa, dolcetti, confetti, zucchero filato e gelatini confezionati, alcuni dei quali ormai prossimi a squagliarsi. Dire che aveva un aspetto sinistro e poco. Sul suo cranio calvo spiccava una piazza di color rosa maialino. Bianca ebbe un presentimento e sentì i brividi scendere lungo la schiena. «Benvenuti nella mia favola», disse l'ometto. «Chi siete?» chiese Andrea. «Non l'ho ancora capito», si sentì rispondere. «Presto, papà, dobbiamo fuggire. Quello lì è l'orco», disse Bianca, stringendosi nelle spalle, come se volesse scomparire. Detto questo, cercò di afferrare il padre per la manica della giacca, forzandolo a correre via, ma Squartaciccia le sbarrò il passo. Ci fu un attimo di silenzio, durante il quale Andrea cercò di mettere a fuoco le cose. Anche Cecaocchi e Codamozza, che nella trasformazione avevano perso uno la benda e l'altro il frac, facevano parecchia impressione visti così. Senza contare che tutti gli altri lupi del branco avevano ripreso forma togliendosi l'abito da pecore. «Adesso le dispiacerebbe farsi da parte e consegnarmi la sua bambina?» disse l'orco con una calma sfacciata. «No e poi no», replicò Andrea, «e ora dica a questi qua di lasciarci andare. Se non me la consegnate, me la prenderò io stesso. Lei non oserà!» «Certo, certo», borbottò l'ometto, «ma io, vede, non sono un pastore. Sono il proprietario di questa favola, l'orco in persona, e voi siete ormai entrati nel mio regno. Vi ho stregato, cocchi belli!» Non aveva nemmeno finito di pronunciare la frase che Squartaciccia afferrò Bianca per il cappuccio della felpa, sollevandola da terra e lanciandosi a tutta velocità verso il castello, anch'esso ricomparso sulle alture che dominavano la campagna. L'incantesimo si era dunque compiuto. Tu, odioso pastore, vedrai, ti denuncerò!» urlò Bianca mentre spariva alla vista del padre. L'orco ridacchiò, salutò con un mezzo inchino, causando al suo gilet la perdita di un altro bottone, e poi svanì come un prestigiatore. Forse aveva davvero dei poteri magici, o forse Andrea era così sconvolto dalla scomparsa di Bianca che la vista gli si annebbiò. La macchina era ancora parcheggiata all'imbocco del sentiero, ma prima che Andrea avviasse l'accensione, Codamozza e Cecaocchi squarciarono con i loro denti affilati un copertone dell'auto. Poi, nel loro stile sgraziato, galopparono verso il castello. Solo e afflitto, Andrea appoggiò la testa sul volante. Pensò di chiamare sua moglie, anche se non poteva certo dirle che Bianca era stata rapita. Provò allora a formare il numero della polizia, ma il suo cellulare non dava segnale. Il sole stava tramontando, il cielo si fece di un colore indaco così puro che gli parve incredibile di trovarsi in una situazione tanto disperata. In quel momento sentì dei passi che calpestavano l'erba. D'improvviso, nello specchietto retrovisore, gli parve di vedere la testa di un bambino che subito sparì. Andrea si voltò pensando di aver avuto un'allucinazione. Subito dopo, però, sul lunotto posteriore comparve un'altra testa e stavolta era quella di un lupo. Preso dal panico, Andrea aprì la portiera. Un lupo e un bambino lo stavano fissando. «E adesso chi siete voi?» «Io mi chiamo Marco e ho 6 anni». «E lui?» chiese Andrea indicando il lupo che gli stava seduto accanto. Lui non parla, ma è mio amico. Gli ho dato io un nome, è Lupo Cerino. Ma questa è la storia che ha raccontato il pastore, cioè l'orco che ha rapito Bianca, mia figlia. È per questo che siamo qui, per aiutarti a ritrovarla. Voi siete i personaggi di una favola, non potete aiutarmi. Adesso anche tu sei il personaggio di una favola, quindi siamo pari. Andrea si grattò la testa. Gli venne il dubbio che quel marmocchio avesse ragione. Era necessario agire in fretta, perché le cose potevano mettersi davvero male per Bianca. Il Lupo Cerino conosceva la strada più breve per arrivare al castello. Marco e Andrea si attaccarono alla sua coda per non correre il rischio di smarrirsi. Marciarono di buon passo e poco a poco videro avvicinarsi la massa oscura del palazzo con un'unica finestra illuminata. «Dobbiamo stare attenti adesso. I lupi di guardia ci potrebbero sentire», disse Marco. «Come faremo a entrare nel castello con tutte quelle bestie feroci?» chiese Andrea. Marco ci pensò un attimo. «Bisogna che siano loro a uscire». «In che modo?» «Costruiremo uno spaventapasseri». «Uno spaventapasseri?» «Proprio così», disse Marco. «Mica sono uccellini quelli là». «Infatti, ma noi non dobbiamo spaventarli, dobbiamo attirarli qui, fuori dal castello». «Ho capito», disse Andrea, «ma come?» «Si tolga la giacca», gli ordinò Marco senza guardarlo. Andrea non se lo fece ripetere. «Anche i pantaloni?» chiese. «Anche i pantaloni», rispose Marco con fermezza. Il Lupo Cerino nel frattempo aveva trascinato lì un bel ramo dritto con cui Marco e Andrea costruirono lo scheletro del pupazzo. La testa fu rimpiazzata da un grosso melograno che pendeva da un albero. Era notte e solo da molto vicino si poteva vedere il trucco. Marco raccolse una grande quantità di aghi di pino e ne riempì le tasche della giacca e dei pantaloni del fantoccio. Ora dobbiamo avvicinarlo al cancello perché i lupi di guardia lo vedano. Crederanno che lei sia venuto a cercare Bianca e usciranno per sbranarla. Andrea, che era rimasto in mutande e camicia, provò un brivido, non si sa se di freddo o di paura. Quando saranno usciti fuori, lei e il Lupo Cerino scivolerete dentro. E tu? Chiese Andrea. Io mi nasconderò su quell'albero, disse Marco indicando un grande salice piangente. In quel momento spuntò una grossa fetta di luna. Lo spaventapasseri venne illuminato da una luce argentata e parve davvero un intruso. Infatti, i lupi di guardia iniziarono a ululare come forsennati. Andrea e il Lupo Cerino si nascosero nel buio ai lati dell'entrata. Cecaocchi venne a sincerarsi della questione. Però, non trovando la chiave del cancello, chiese a Codamozza se l'aveva presa lui. Finirono per accusarsi a vicenda e dovette intervenire Squartaciccia. Vedendo che la chiave proprio non si trovava, fu costretto a cercare il doppione che di solito l'orco teneva nella sua camera. Salì le scale sapendo di rischiare una brutta lavata di capo. L'orco infatti non voleva essere disturbato per nessun motivo. In punta di zampe Squartaciccia passò davanti alla porta socchiusa della cucina. L'orco stava ungendo la padella che riservava le grandi occasioni e non si accorse di lui. Squartaciccia fece in tempo a vedere Bianca avvolta in una grossa fetta di lardo e cosparsa di verbe aromatiche. Sembrava già un involtino. I suoi occhi erano così pieni di terrore che perfino un duro come Squartaciccia ebbe un moto di pietà. Mentre prendeva il doppione della chiave dal forziere, sentì la voce dell'orco che diceva «Non preoccuparti, caciottina, non ti friggerò troppo a lungo». Allora Squartaciccia si precipitò per le scale con la chiave. Il branco finalmente poté uscire e Cecaocchi, che ci vedeva sempre meno, non fu il solo a credere che il tipo da sbranare fosse il padre di Bianca. I vestiti erano quelli. Chi poteva essersi spinto fin lì se non un padre disperato? Erano ormai addosso alla figura quando accadde qualcosa. Gli aghi di pino con cui Marco aveva riempito le tasche dello spaventapasseri ci misero un niente a prendere fuoco, paralizzando i lupi. Marco aveva fatto buon uso del suo cerino, il secondo a sua disposizione, appiccando il fuoco giusto in tempo. e dall'albero su cui era riuscita ad arrampicarsi in tutta fretta, vide i lupi latrare come impazziti, incapaci di andare avanti o tornare indietro. Perfino Squartaciccia rimase di stucco, impossibilitato da quella vampa di calore a ragionare e dare ordini. A Codamozza andò anche peggio. Non si accorse che le code del suo frac avevano preso fuoco. Ben presto fu avvolto dalle fiamme e dovette correre come una saetta nello stagno più vicino. Andrea e il lupo Cerino sgusciarono oltre il cancello. Salirono le scale con passo felpato. Andrea, in camicia e mutande, era talmente teso da non sentire più il freddo. Quando poi i lamenti di Bianca gli arrivarono alle orecchie, il lupo Cerino dovette fermarlo con un colpo di coda perché non si precipitasse nella cucina. Lui, che aveva conosciuto i poteri dell'orco, sapeva che il minimo errore sarebbe stato fatale. Bianca, poverina, era ormai in padella e l'orco stava accendendo il fuoco sotto il fornello. Andrea spalancò la porta con un calcio, dando al lupo la possibilità di spiccare un balzo che aveva dell'incredibile. L'orco fece appena in tempo a girare la testa che già le potenti mascelle del lupo gli serravano la gola. Andrea si affrettò a spegnere il fornello. La bambina venne tirata fuori dalla padella rovente giusto in tempo. Grazie alla spessa fascia di lardo da cui era avvolta, non aveva riportato scottature. Mentre lei e il padre si abbracciavano commossi, il lupo Cerino sferrava il colpo fatale al gargarozzo dell'orco. Prima, però, volle trasmettergli un pensiero affilato come i suoi denti. Questa è la fine di chi approfitta del suo potere. Crack! L'orco cominciò a sgonfiarsi come una ciambella. Soprattutto la sua pancia perdeva volume, finché non rimase che un mucchietto di vestiti e un gilet con un solo bottone. Intanto, anche lo spaventapasseri purtroppo si era ridotto a un mucchietto di cenere e i lupi, dopo il grande spavento, avevano ripreso coraggio. Marco, appollaiato su un ramo, li vide circondare il salice. I lupi puntavano il muso verso l'altro, proprio nella sua direzione, e sentiva il rumore dei loro denti che si arrotavano. Quanto poteva resistere lassù? Codamozza, che si era parecchio raffreddato a causa del suo tuffo notturno nello stagno, aveva il naso che gli colava, ma ero deciso a dare una lezione a quel piccolo impertinente. Cecaocchi non vedeva un H, ma sentiva l'odore di quel bricconcello. Squartaciccia girava così nervosamente intorno all'albero che gli era venuto il mal di testa. Ululò il lupo Cerino, tradotto dalla lingua dei lupi significava «Fermi! Lasciate stare il bambino!» e poi aggiunse «L'orco è morto e adesso sono io il vostro re!» Era salito sul muro di cinta in un punto da cui poteva controllarli come un autentico sovrano. Dalla bocca gli pendeva il gilet dell'orco con alcuni resti di ciupa ciupa e di celadini squagliati. Anche Marco ne fu impressionato. Squartaciccia non era per niente d'accordo con la successione, ma capì che il suo giovane rivale faceva sul serio. Non era mai stato un esempio di coraggio, perciò abbassò la coda e piegò le orecchie. «Oh!» mormorò il branco assistendo a una simile ritirata. Il lupo che si azzardava a sfidare Squartaciccia era in possesso di un potere che nessuno di loro conosceva, l'amore e l'amicizia di quel bambino. Non era un potere qualsiasi. Così, mogi mogi, i lupi rientrarono nel giardino del castello. Proprio in quel momento, Bianca e suo padre scendevano le scale. La bambina non aveva ancora recuperato il suo colorito e la vista di tutti quei lupi non contribuì certo a rasserenarla. Il lupo Cerino scese dal muro di cinta, strofinò il suo bel muso sulla sua mano. Bianca ricambiò quel gesto affettuoso con una carezza. «Questo lupo si comporta come un gatto», disse Andrea. Sentendo quelle parole, il lupo Cerino arricciò la coda a forma di punto interrogativo e lo guardò fisso. «Non si preoccupi», disse Marco, che nel frattempo era sceso dall'albero. «Gli succede quando non capisce». «Adesso che l'orco è morto, noi vorremmo tornare alla macchina», disse Andrea, che, sempre in mutande e camicia, batteva i denti dal freddo. «A casa si saranno preoccupati per la nostra assenza». «Anch'io vorrei tornare a casa», mormorò Marco. «Sono rimasto prigioniero di questo incantesimo per tanto tempo. Prima però vorrei festeggiare il mio amico lupo, perché grazie a lui se adesso siamo liberi. Appena sentì la parola festeggiare, Bianca si accese di entusiasmo. Sì, papà, facciamo una bella festa in onore del lupo Cerino. Se l'è meritata, no? Andrea abbassò lo sguardo sulle proprie gambette pelose. Come faccio a partecipare a una festa conciato così? Accendiamo un fuoco, propose Marco, un fuoco grande. Così ci scalderemo tutti. Fu proprio quello che fecero. Quando le fiamme si alzarono verso il cielo, tutti iniziarono a danzare. Squartaciccia era l'unico rimasto in disparte. Sembrava quasi che non partecipasse alla festa. Fu il lupo Cerino ad avvicinarsi. «Stai tranquillo», gli disse nella lingua dei lupi. «Lasceremo questo castello. In fondo, che cosa siamo stati fin qui?» Squartaciccia lo guardò perplesso. «Che siamo stati?» Il lupo Cerino non rispose. «Veramente? È a te che l'ho chiesto?» «Beh, non saprei. Io eseguivo soltanto gli ordini dell'orco.» «Ecco, appunto. Non eri un vero lupo, ma solo un servitore dei suoi capricci. È per questo che io mi sono ribellato.» Finalmente Squartaciccia capì. Avevi ragione. «Domani», disse il lupo Cerino, «riprenderemo la nostra vita nomade. I territori di caccia non mancano.» A quel punto Squartaciccia stava per commuoversi. Il lupo Cerino vide che i suoi occhi brillavano la luce del fuoco e sentì che ora aveva un degno alleato. Un senso di pace e di serenità pervase la notte. L'incantesimo era davvero finito. L'indomani Marco e il lupo Cerino si svegliarono consapevoli che le loro strade si sarebbero divise. Avevano superato molte prove insieme e ognuno aveva imparato dall'altro, come sempre accade nelle vere amicizie. Marco disse a Bianca e a suo padre di avviarsi, che li avrebbe presto raggiunti. Lo stesso fece il lupo con gli altri del branco. Stavano uno di fronte all'altro, proprio nel luogo dove si potevano ancora vedere i resti della gabbia in cui il lupo era stato prigioniero dell'orco. Quanto tempo era passato? Nessuno dei due poteva dirlo. Marco però sapeva di voler ritrovare la casa dei propri genitori, crescere e andare a scuola come gli altri bambini. Il lupo invece era fatto per la vita selvaggia e non l'avrebbe cambiata con nessun'altra. «Addio», disse Marco accarezzandogli il muso. «Non ti dimenticherò.» Il lupo, che pure non conosceva le parole degli uomini, comprese. Stavolta la coda non gli si arricciò come un punto interrogativo. In compenso, offrì la sua zampa all'amico, che la tenne a lungo nella mano. «Un giorno, quando vedrai un piccolo fuoco al margine della foresta, ricordati che quello sarà il mio segnale di riconoscimento. Lì potremo incontrarci di nuovo, fare i nostri giochi, ascoltare insieme il canto degli uccelli e il fruscio del vento tra i rami.» Dette queste parole, si separarono, con il cuore gonfio di tristezza, ma anche consapevoli che la loro amicizia non sarebbe mai venuta meno. Lupo Cerino riprese il branco e galoppò alla sua testa. Il sole era già alto quando Bianca, Andrea e Marco ritrovarono la macchina abbandonata sul ciglio della strada. Dovettero sostituire la gomma che Cecaocchi e Codamozza avevano squarciato, poi finalmente ripartirono. Per prima cosa Andrea si preoccupò di trovare la casa di Marco. Ben presto però si accorse che le sue indicazioni non corrispondevano più all'attuale paesaggio. Dove prima c'era la campagna, erano sorti interi quartieri di case tutte uguali, e Marco, guardandole dal finestrino, si sentiva sempre più confuso. Anche Bianca e Andrea iniziarono a preoccuparsi, temendo che Marco fosse davvero rimasto prigioniero dell'incantesimo per troppo tempo. Andrea pensò che la sua famiglia si fosse trasferita altrove, ma dove? Per quel giorno la loro ricerca si arrese all'evidenza. Marco venne ospitato a casa di Bianca e quando vide le feste che la mamma le riservava, ebbe un momento di vero sconforto. La notte, nella stanza della sua amica, restò a occhi aperti. Sentiva il respiro di Bianca che dormiva nel letto di fronte al suo, beata. E intanto si chiedeva dove fosse il lupo Cerino in quel momento, perché ne aveva nostalgia. Dopotutto era stato lui la sua famiglia. L'indomani, dopo la colazione in cui Marco non toccò praticamente cibo, Andrea decise che bisognava adottare una strategia più efficace per riportare il piccolo a casa. Chiese a Marco se per caso si ricordava il suo cognome. «Che cos'è un cognome?» domandò a Marco, che non ricordava nemmeno di averne uno. Fu il caso, il destino, a dargli una mano, forse perché in cuor suo aveva davvero chiesto aiuto al suo angelo custode. Mentre se ne stava in cucina, lo sguardo gli cadde su un pacco di biscotti, non perché avesse fame, ma perché il nome Gabrielli gli fece venire in mente qualcosa. Lo disse a Bianca e subito la notizia circolò per casa. Era solo un indizio, ma intanto bisognava tentare. Presero dunque l'elenco telefonico e cercarono quel cognome. C'erano almeno una ventina di Gabrielli in città, ma solo uno si chiamava Giulio, come il papà di Marco. Questo almeno se lo era ricordato. La madre di Bianca disse che era meglio andare direttamente all'indirizzo segnato sull'elenco, perché era una faccenda assai delicata e non le sembrava bello risolverla per telefono. Cosa avrebbero chiesto a quella famiglia? Per caso avete perso un bambino di nome Marco? Anche Andrea se ne convinse e così presero la macchina e partirono. Imboccarono strade e stradine. Quando giunsero in via delle Porcellane al numero 14, trovarono il portone aperto. Il palazzo era uguale a tanti altri, alto, arancione, con dei balconcini che sembravano le celle di un grande alveare. Salirono d'un fiato fino al terzo piano. Quando suonarono il campanello, Marco drizzò le orecchie come aveva visto fare al suo amico Lupo. Venne ad aprire una ragazzetta di circa 15 anni, magra, jeans a vita bassa, tenuti su da un cinturone, capelli spettinati e poi dalle orecchie, evidentemente presa dall'ascolto della musica. Marco la guardò. Chi era quella? Per fortuna la mamma di Bianca ebbe la prontezza di dire che erano vecchi amici dei suoi genitori di passaggio in città. La ragazzina, che era assai distratta, li fece entrare, suscitando subito le proteste di sua madre, una donna coi capelli bianchi che le aveva sempre raccomandato di non aprire agli estranei. Marco non aveva subito riconosciuto Sara, cioè sua sorella, ma quando vide la mamma, invecchiata sì, ma pur sempre lei, non riuscì a trattenersi. «Mamma!» Asciugandosi le mani nel grembiule, la donna stentava a credere di aver sentito bene. Andò a prendere i suoi occhiali, mentre Andrea cercava di spiegarle la situazione. In ogni caso, la madre di Marco inforcò gli occhiali. «Come hai detto?» chiese stupita. «Sono io, Marco!» La donna ebbe come un mancamento. La mamma di Bianca si affrettò a soccorrerla, mentre Sara fece almeno lo sforzo di togliersi le cuffie. «Si può sapere che succede?» chiese. «Abbiamo riportato a casa tuo fratello», le disse Bianca, che proprio non sopportava quella fanatica. Erano tutti sottosopra quando il padre di Marco tornò dal lavoro e scoprì che era in atto una rivoluzione. Superate le prime diffidenze, anche lui fu costretto a riconoscere che quel bambino somigliava proprio a Marco. L'unico problema era che il suo Marco era scomparso da casa 11 anni prima. Ricordò la disperazione e tutte le ricerche che avevano fatto. Com'era possibile che fosse lui? «E com'è possibile che sia rimasto così piccolo?» aggiunse Sara. «Zitta tu», le intimò Bianca, «partecipi alle enormi difficoltà del suo amico». I genitori di Marco intanto pensavano di essere vittime di uno di quei brutti scherzi che organizza la televisione. «Dov'è finita la nostra casa in campagna?» chiese Marco all'improvviso. Il padre stavolta provò una forte scossa. Cercò le parole per spiegare che era stato costretto a venderla, perché il cemento della città era avanzato fino alla loro porta. Poi, usando la sua conoscenza delle piante, aveva aperto una piccola erboristeria. Non era come lavorare all'aria aperta, in mezzo ai campi, ma si era adattato. Avevi ragione tu, papà. Non avrei mai dovuto allontanarmi dalla nostra casa. L'ho fatto per aiutare un amico, un lupo, ma non pensavo che per questo un giorno voi non mi avreste riconosciuto. Nelle favole il tempo non esiste e io sono rimasto piccolo. Ma ho imparato lo stesso un sacco di cose, anche ad accendere il fuoco con un solo cerino. Ti ricordi? Tu me ne avevi dati 3. Detto questo, Marco infilò una mano nella tasca e tirò fuori l'ultimo cerino che gli restava. Vedi? Me ne è rimasto ancora uno. Era uno di quei vecchi zolfanelli che adesso non si trovano più nemmeno dai tabaccai. Guardò i suoi genitori, si avvicinò a una candela che stava sul mobile e con calma l'accese. La stanza apparve subito diversa, come se una mano invisibile fosse scesa a darle un tocco di bellezza. Di fronte a quella prova il padre aprì le braccia per accogliere il suo piccolo ritrovato eroe. Bastò un attimo e l'immenso vuoto che Marco aveva lasciato si colmò. Qualche volta, anche se assai di rado, il tempo delle favole e quello della realtà si mettono d'accordo.